lo sforzo che faremo. Sul caro benzina, credo che sia una esigenza che ha tutto il mondo e che ha sicuramente l'Italia più di altri, perché più di altri dipende dagli altri per il petrolio e quindi non riesce a gestire il suo sviluppo economico. Ma sa, questo intervento sulle accise è costato molto nel complesso, ma non è servito nulla nelle tasche dei cittadini. E dobbiamo fare una lotta al caro prezzi, non soltanto nel caso della benzina, ma di tutto il nostro mercato, attraverso una riduzione dei costi ogni passaggio che ha questo nostro paese. Ci proveremo. Guardi, l'energia, dobbiamo arrivare in tempi brevi a una conferenza nazionale sull'energia, perché è un problema che ci porterà, se non lo affrontiamo, a spegnere la luce. Il caro prezzi, che è una grande preoccupazione per molti cittadini, e credo rendere più competitive le nostre imprese attraverso una maggiore facilità della vita delle imprese e delle nuove imprese che vogliono nascere.